c'è nemmeno il tempo di portarsi via, rubando senza poesia. È solo un giorno che non va, non te preoccupa. E poi ti accorgi che anche tu, tu non ci pensi più, tu non ci pensi più. Resta un po' con me finché la luce se ne andrà, e prova a fare tardi per non te farlo. E tu respira forte, passerà, perché è solo un giorno, un giorno che non va, oh, che non va. Poi non è vissuta in un angolo vero, dove tutto è sincero. Ma è solo un giorno che non va. Non ti preoccupare, e poi ti accorgi che anche tu non ci pensi più.